Tempo di sport. Lo sguardo al mercato in controluce, direi, con l'aiuto di Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, che sta per raggiungermi qua in studio per capire insieme l'evoluzione o l'involuzione di questa edizione indubbiamente singolare del calciomercato. Io partirei da un editoriale firmato stamane da Franco Arturi sulla Gazzetta dello Sport, dal titolo "La fine di un'epoca per il calcio italiano". È finita un'era, e non solo per Berlusconi e per il Milan. L'affare Kakà verrà ricordato come lo spartiacque tra un calcio italiano dominante e quello che sale su un vagone di seconda classe. In prima ci sono spagnoli e inglesi. Noi ci accomodiamo insieme a tedeschi e francesi pagando il biglietto alla portata del nostro portafoglio. Prima di piangere e protestare, un sano senso di realtà deve portarci a distinguere tra il mondo dei sogni e quello dei bilanci. La dura legge del budget viene prima di ogni considerazione legata all'immagine e alle strategie autopromozionali di cui il presidente del Milan e del Consiglio è stato maestro. Dagli elicotteri e marcia trionfale dell'Aida, con cui il patron rossonero presentò al mondo la sua nuova creatura a metà anni Ottanta, all'invito alla corte madrilena di Florentino Perez per vendere l'ultimo pezzo pregiato dell'argenteria di casa e tirare avanti con tutta la dignitosa classe degli aristocratici provati dal destino. Nello sport succede che gli altri si rivelino più bravi. Segue una lunga esegesi di quello che è accaduto in questi mesi e in questi anni, ma insomma mi sembra che questo titolo, "La fine di un'epoca per il calcio italiano", e questo cappello, insomma questo primo paragrafo che vi ho letto, dia perfettamente l'idea di quello che sta accadendo. Il Corriere della Sera si è mosso più o meno sulla stessa lunghezza d'onda, chiamando in causa due tifosi particolari di Inter e Milan. Allora, per l'Inter ha scritto Beppe Severgnini: "Vai Ibra, vai, l'urlo è sempre lo stesso, quando correva verso il portiere avversario e ora che vuole scappare a Barcellona. Non è né rabbia né cinismo, è sobria consapevolezza. L'unico amore gratuito nel calcio è quello di noi tifosi. Zanetti, Maldini e Totti sono lodevoli eccezioni e vanno apprezzati come tali, ma la regola è un'altra, la stessa che vale nei mercati e nei bordelli: chi paga di più? E poi diciamolo, se arrivasse Milito e rimanesse Ibra saremmo troppo forti. Che noia, Ibra va via dunque. Confesso tuttavia, finché non lo vedo non ci credo." A fianco c'è una sorta di lettera affettuosa di Teo Teocoli a Silvio Berlusconi. Il titolo è "Caro Silvio, piuttosto vendi Villa Certosa". E il testo di Teocoli è particolarmente divertente, soprattutto nella prima parte. È questo, vi leggo per l'appunto le prime righe: "Se davvero vendiamo Kakà, allora io mi dimetto da milanista. Confermo, non andrò più allo stadio nemmeno con un biglietto omaggio. Io che da ragazzo scavalcavo i cancelli per vedere giocare Rivera, io che indossavo la giacchetta da venditore di amari per entrare a San Siro, io che rompevo le balle al povero Cesare Maldini, ma questo non ha mai i biglietti", diceva lui ogni volta, "per un ingresso omaggio, io, milanista vero, ho preso una decisione. Vendete Kakà e Pirlo, già che ci siete, e la domenica andrò a vedere la fiera del mobile di Cantù o la mostra degli uccelli impagliati di Gallarate. Ma come? Siamo appena tornati in Champions League e lasciamo andare via il giocatore più forte del mondo?" Eccetera, eccetera. Seguono, evidentemente, seguono o precedono un'infinità di altri commenti, ma che più o meno hanno tutti quanti questo taglio. E questo dà un po' un'idea di una fase di svolta a cui stiamo assistendo. Tra un po' leggerò anche i vostri messaggi, sentiremo i vostri interventi in diretta su questo argomento. Ripeto, aspetto Marco Bellinazzo per uno sguardo diverso, per uno sguardo più realista a questa fase di calcio mercato. Nel frattempo ascoltiamo cominciamo subito con questo fronte e sentiamo che cosa ha detto ieri Gattuso a Coverciano sull'affare Kakà. Fin quando non è ufficiale, che devo dire? Se andrà via, dispiace molto, e va via un campione. La società, come dire, ha deciso di metterlo sul mercato. E dispiace perché non è che va via l'ultimo arrivato, va via uno che quando sta bene fa vincere le partite. E mi dispiace perdere un compagno così. Questo era, Questa era la voce di Rino Gattuso. Stamane Berlusconi ha parlato anche di Milan a molte televisioni. In particolare ospite di Mattino 5, questa la leggo dall'agenzia ANSA, ospite di Mattino 5, quindi a Canale 5, ha detto testualmente: il Milan quest'anno non ha giocato con la tattica di gioco suggerita dal suo ex presidente, lo ha fatto solo nell'ultima partita che ci ha permesso di conquistare la Champions. In più abbiamo campioni come Ronaldinho che giocava in una partita gli ultimi 20 minuti e questo ha causato anche una caduta di morale nel giocatore. Il biglietto viene pagato per vedere Ronaldinho in campo tutta la partita, anche se lui riesce a fare bene anche in 20 minuti, ma è meglio che in campo ci stia per 90. Ci sono già degli ascoltatori collegati. Evidentemente l'argomento, come dire, interessa. Aggiungo qualche altra notizia nel frattempo. Eto'o, centravanti del Barcellona, autore del primo gol nella finale di Coppa Campioni, è vicinissimo al Manchester City per 22 milioni di euro e questo conferma due cose. La prima, no, ne conferma una. Conferma la prima, e cioè che Guardiola in realtà non stravedeva e non stravede per Eto'o, e io tra l'altro sottoscrivo in pieno. E la seconda è che probabilmente, anzi certamente, il Barcellona è alla ricerca di un centravanti di qualità superiori a quelle di Eto'o, insomma, il pensiero corre inevitabilmente a Ibrahimovic. Poi c'è a Bologna la conferma dell'allenatore Papadopoulos, che era tutt'altro che scontata a dispetto della salvezza raggiunta. Invece stamane è arrivato un contratto annuale per Papadopoulos, mentre è stato confermato anche Di Vaio, il vice capocannoniere. E poi c'è la ricostruzione di Zamparini della separazione chiesta dal suo allenatore Ballardini. Se ne vuole andare, ha spiegato Zamparini, perché dice che l'ho stressato. E non si fa fatica a crederlo, tra l'altro. Nicola ha chiamato da Bologna, buongiorno. Buongiorno, Venantini. Dica. L'argomento mi interessa molto e volevo dire, dato in tempo di crisi, come in tutta la società italiana o europea, invece di puntare sui grossi nomi, in Italia potremmo anche puntare sui bravi tecnici, tentare una strada nuova, come in Olanda, quando ci fu la famosa Olanda di Cruyff, cioè tentare strade tecniche nuove per vedere se le idee valgono più dei soldi. Ecco qua. Questa è una buona riflessione, è buona anche quella che fa Fede da Alessandria, che dice: la Juve un anno vendeva Vialli e Baggio, un altro Boxi e Cevieri, poi Zidane, poi Inzaghi, ma era comunque sempre più forte. Conta chi compri e non compra chi vendi. È vero, bisogna poi anche vedere come reinvesti i soldi che incassi, ammesso che tu abbia poi l'intenzione di reinvestirli, perché e in che misura, perché quella del Milan adesso sembra un'operazione a tutta l'aria di un'operazione rientro, cioè di un'operazione ridimensionamento per ragioni di bilanci, perché sennò avrebbero tenuto cacà, perché perlomeno. Però vediamo. Federico di Gallarate scrive: sono di Gallarate ma non sapevo che c'era una fiera degli uccelli impagliati, non lo so se fa parte della fantasia fertile di Teo Teocoli, quella della fiera degli uccelli impagliati di Gallarate, oppure se invece la cosa ha un riscontro, o magari l'aveva in passato. Teocoli non è più giovanissimo, magari insomma è rimasto legato a una sagra datata. Franco ha chiamato dalla provincia di Vicenza, buongiorno. Buongiorno Gigi, come va? Tutto bene? Dica. Allora, volevo fare l'intervento se c'era Ancelotti, visto che non c'è ancora. Allora, ma oggi arriva Ancelotti oppure non ci sarà Ancelotti? Uno scollegamento. Ancelotti, io non so se lei legge nelle intenzioni o ha dei fili, insomma, o dei collegamenti sensitivi particolari. Ancelotti è impegnato in una riunione al Chelsea con il direttore generale. Se non fosse impegnato in questa riunione sarebbe già collegato con noi. Non so se riuscirà a esserlo prima della fine della trasmissione. Se così non sarà, sarà in un'altra occasione, ma in ogni caso nella seconda parte della puntata, che ci sia o non ci sia Carlo in collegamento, mi farà piacere leggere qualche breve brano del libro che ha editato da poco con la collaborazione di Alessandro Alciato, perché è un libro eccellente e perché sono di estremo interesse alcuni passaggi, non solo, ma anche perché i proventi di questo libro sono destinati alla ricerca sulla SLA e in particolare a Stefano Borgonovo, di cui Carlo Ancelotti è grande amico. Allora lì ci ci consiglia di comprarlo e leggerlo allora? Assolutamente sì, e se ha la bontà di seguirci nella seconda parte del programma, le farò venire la voglia di comprarlo attraverso tre o quattro aneddoti raccontati da Carlo Ancelotti. Grazie Franco, andiamo in provincia di Latina da Antonio, buongiorno. Buongiorno Garanzini, sono Antonio, sono un tifoso del Milan. Sì. E volevo comunque un suo parere su quello che dirò, nel senso che penso di interpretare un po' il senso di animo che hanno oggi i tifosi, nel senso che hanno una squadra che sembra in svendita, con i suoi pezzi migliori, che sembra, come diceva lei prima, in fase di appunto di dismissioni, e che addirittura non riesce nemmeno a comunicare, diciamo, la vendita di Kakà, che già sicuramente è avvenuta per vicende politiche legate, diciamo, al suo presidente. Cioè, se una squadra deve stare sul mercato e competere a livello mondiale con gli altri club, deve essere anche condizionata dalle vicende politiche del suo proprietario. Volevo sapere che cosa ne pensava del futuro del Milan. Guardi, intanto io so cosa penso del presente e del passato di questo Milan, dei 22 anni di questa gestione, credo lo sappia anche lei. Io credo che accusare oggi Berlusconi di smobilitare, intanto bisogna vedere se sarà una smobilitazione o se non sarà semplicemente invece un rientro e un riequilibrio di bilancio. Dopodiché credo che se c'è un presidente al mondo che ha una discreta apertura, no, di credito nei confronti della sua tifoseria, sia proprio il presidente del Milan. Da questo punto di vista, con quello che il Milan ha messo insieme in questi 22 anni. Poi è ovvio che nella vita e anche nello sport, quindi conta sempre quello che si fa domani. La partita più importante non è mai quella già giocata, ma è sempre quella che deve venire, e quindi capisco lo sconcerto dei tifosi milanisti. Capisco anche che ripetere, come Berlusconi ha ripetuto ossessivamente per tutta la mattinata e a un'infinità di televisioni, che la decisione su Kakà sarà presa lunedì sera, insomma, nel frattempo c'è qualche piccolo adempimento collettivo, no? da qui a lunedì. Ma questo per carità, dà ragione a lei quando dice che ci sono un po' troppo, non uso la parola di routine, uso la parola commistione, ci sono un po' troppe commistioni in giro da questo punto di vista. Però prima di accusare Berlusconi in chiave milanista di ingratitudine, ci andrei ancora un po' pianino. Capisco lo sconcerto, capisco anche la delusione, ma l'ingratitudine è poi ancora un'altra cosa. Nicola da Varese, buongiorno. Buongiorno dottore. Dica, ascolti, io penso che invece benvenga che tutti vadano, questi calciatori così pagati, perché ritengo che sia giunto il tempo di dare un po' una svolta. Non è significativo, sa, che Inghilterra e Spagna spendano tanti soldi. Innanzitutto, da quello che mi risulta, hanno bilanci disastrati, almeno in Inghilterra, in Spagna non lo so. Secondo, mi pare che il Real Madrid, che sono anni che va avanti a spendere, ultimamente non è che abbia vinto molto. Terzo, voglio dire, il problema non è solo vendere, il problema è essersi preparati, perché il Barcellona, che in questo momento sugli scudi, ricordo che 7 su 11, se non vado errando, arrivano dal vivaio, compresi Iniesta e compreso Messi, che, se non ho letto male, l'hanno portato a casa, che aveva 18 anni, forse meno. Non ne aveva 12, no, non va errando, ne aveva 12. Quando l'hanno preso ed era proprio piccolino, l'hanno anche aiutato a crescere da tutti i punti di vista. Certo che non tutti i mali vengono per nuocere. Poi l'attacco era un po' da Bondi, sinceramente, no? mi è sembrato l'inizio di questo suo intervento, mi sembrava un po' in quell'aura e in quello spirito. Però è vero che non tutti i mali vengono per nuocere, anzi, se passasse una volta per tutte la lezione del Barcellona, che poi può passare in grande o in piccolo stile evidentemente, ma insomma, se si tornassero a valorizzare i vivai, nessuno può dimenticare che il grande ciclo del Milan è nato comunque da un grande vivaio e da tanti buoni o grandi giocatori fatti o comunque allevati in casa. E se si torna alla metà degli anni 80, alla seconda metà degli anni 80, non è difficile ricordare anche i nomi. Come vi ho promesso, mi ha raggiunto in studio Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Marco, bentornato. Buon pomeriggio. È un mercato anomalo per certi, cioè non per certi, è un mercato anomalo in assoluto da molti punti di vista. Intanto è partito prima del solito, si sono conclusi affari a campionato in corso, c'è un grande rimescolamento di panchine, ma soprattutto c'è questo minacciato, ma insomma forse anche un po' più che minacciato, esodo di campioni dal nostro calcio verso altri lidi. Allora, riusciamo a inquadrare tutto questo da un punto di vista economico, finanziario, magari prima europeo, no? Prima continentale, che ci per l'appunto che ci spieghi per il perché di questi movimenti e di questo meccanismo attuale, e poi magari arriviamo invece al dettaglio sulle società italiane che possono o non possono permettersi che cosa. Ricordiamo innanzitutto che questo è un calciomercato anomalo, perché è il calciomercato che si svolge quando una crisi economica di dimensioni spaventose ha in qualche modo squassato le economie al di qua e al di là dell'Atlantico, ed anche il calcio ne ha risentito sotto tanti punti di vista. Il problema più nel dettaglio del calciomercato in Europa in questo momento è dovuto, come abbiamo ricordato anche la scorsa settimana qui, a una differenza di regole, di bilanci, di regole fiscali che stanno creando un gap notevole tra il campionato inglese e quello spagnolo da un lato e quello italiano, francese e tedesco dall'altro. Faccio un brevissimo inciso di numeri, per esempio stamane lo ricorda la stampa con una tabella, il prelievo fiscale che da noi è del 43%, e che in Francia è praticamente analogo perché siamo quasi al 42, in Inghilterra è del 38,5, che già comunque qualcosa di diverso vuol dire, in Spagna è del 24%. Questo riguarda il prelievo, ricordiamolo, sui calciatori, ma che in realtà poi è un prelievo che si trasla sulle società, perché generalmente i calciatori contrattano al netto i loro ingaggi. Sì. Abbiamo fatto l'esempio di un contratto di un giocatore medio la scorsa settimana di 2 milioni di euro, che effettivamente a una società italiana poi costa 3 milioni e 7, a una società spagnola 2 milioni e 7 invece, proprio perché lì c'è questa regola che consente ai giocatori stranieri, quindi quando si parla di quel 24% non riguarda i giocatori spagnoli, i 7 famosi del vivaio del Barcellona cresciuti, sì, dalla altri società, ma gli stranieri che vengono acquistati e che quindi sono considerati non residenti, i quali per 5 anni e soltanto per 5 anni possono godere di questa speciale tassazione. Il prelievo per esempio sull'Inghilterra nel 2010 cambierà, e questa è una cattiva notizia che lo stesso Wenger qualche settimana fa ha segnalato come un pericolo per il calcio inglese, insieme alla svalutazione della sterlina, in quanto da circa il 40% passerà il prelievo sui redditi superiori a 150.000 sterline oltre il 50%, per cui prevede un esodo di campioni a sua volta dall'Inghilterra all'Europa e forse alla Spagna. Quando parlavo di differenza di regole prima, mi riferivo per esempio al fatto che una squadra come il Real Madrid, che è stata evocata prima, ha circa 500 milioni di debiti, e mi viene da sorridere a pensare appunto a questa campagna acquisti faraonica con stanziamenti di oltre 250 milioni che dovrebbe consentire di rubare o di acquistare, a seconda dei punti di vista, i campioni delle squadre di mezza Europa. Le squadre spagnole come il Real Madrid, come il Barcellona, hanno una forma associativa e non di società di lucro, tanto per capirci, hanno una serie di agevolazioni fiscali, non pagano per esempio le imposte quando vendono un giocatore, realizzano delle plusvalenze, mentre in Italia per esempio si paga l'IRES e si paga anche l'IRAP su quel tipo di affari, il che rende chiaramente il nostro calcio sempre meno competitivo. Forse la fine di un'epoca, come raccontavi tu all'inizio di questa, sì, puntata. Come raccontava Franco Arturi sulla Gazzetta stamane, mi è sembrata, anche perché appare sul principale quotidiano sportivo italiano e quindi insomma dà un po' la sensazione precisa del fatto epocale. Di un fatto epocale, forse però non è un male, non è un male che il bilancio venga considerato come un valore in sé, un valore dovrebbe essere anche per la UEFA, come Platini il valore primario ha più volte ricordato, come no? Ed è una battaglia che a questo punto l'Italia deve combattere a livello europeo, sia all'interno delle sedi comunitarie, sia nell'ambito della Federazione Europea, perché diciamo, è evidente che un gap di regole e un gap ora anche di valore sportivo ci condanna a restare sempre più indietro finché stanno così le cose. Se una squadra come il Manchester o il Liverpool possono viaggiare con debiti di 600-800 milioni di euro e continuare ad acquistare grandi calciatori, per quanto abbiano introiti maggiori delle nostre, però è chiaro che hanno raggiunto una posizione dominante nel mercato, e questo indurrà le nostre società, come è avvenuto negli ultimi anni, a guardare le semifinali o le finali di Champions sempre dalla tribuna o dalla televisione. Certo che sì, arrivano tantissimi messaggi, scrive un ascoltatore, per esempio: trovo assurdo che dei fatti sportivi possano condizionare le elezioni, Berlusconi fa soltanto bene a ritardare l'annuncio, scrive questo ascoltatore, e io condivido. Non c'è dubbio che Berlusconi ritarderebbe l'annuncio anche se Kakà invece di venderlo lo comprasse. O c'è qualcuno magari che ha dei dubbi su questo? Non credo, mi auguro di no. Torniamo, Marco, a questo aspetto più interno invece, e cioè sulla base della situazione fiscale debitoria italiana complessiva, parlo di società per società. Allora, il Milan ha deciso di autoridursi, no? Cioè, ha deciso di fare questo tipo di politica. Quali altre società dovranno stare particolarmente attente in sede di mercato, e chi invece potrà magari permettersi, non dico di largheggiare stante la crisi globale, ma insomma di essere più brillante? Il Milan con l'operazione Kakà potrebbe pareggiare il rosso di quest'anno, e sono circa 60-70 milioni di euro. Quindi, per cui a quel punto potrebbe alla lira proprio quasi. Esattamente, sembra quasi fatto apposta. Sì. L'Inter è una squadra che realizza passivi sempre intorno ai 150-200 milioni negli ultimi anni. Moratti finora ha sempre ricapitalizzato, ha sempre avuto la forza economica di sostenere questi sforzi, ma è chiaro che se la famiglia Moratti insomma vorrà cambiare linea e strategia operativa, e quindi attenersi più all'equilibrio finanziario che alla speranza di vincere la Champions o di competere con questi grandi club europei, dovrà in qualche modo ridimensionare. Ecco che l'operazione Ibrahimovic potrebbe spiegarsi come un'operazione analoga a quella di Kakà, per pareggiare subito i conti in bilancio e poi diciamo gestire in maniera più oculata la campagna acquisti. Io direi che generalmente però le società italiane non sono messe male dal punto di vista dei bilanci, proprio perché c'è stata una campagna diciamo implicita e partita qualche anno fa da Bologna, se non ricordo male, dal presidente Gazzoni Frascani, e che ha sostanzialmente lanciato un grido d'allarme. In parte è stato ascoltato, in parte no, e ora in qualche modo si ritorce contro le società italiane, perché se avessero portato in Europa prima questa battaglia, certo, ora non si troverebbero in questa situazione. Ma voglio dire, anche i fallimenti che hanno riguardato molte squadre italiane in questi anni hanno in qualche modo ripulito i conti, con buona pace dei creditori. In ogni caso c'è stato il tentativo di avere più attenzione alle proprie risorse, di valorizzare i vivai. Molte squadre lo stanno facendo e lo hanno fatto, per cui generalmente non ci sono grossi debiti, parte la Juve che ha 20-30 milioni ma che ha la possibilità di ripianare. Per il resto esistono diciamo società, anzi in attivo, come il Napoli, non a caso ha potuto realizzare un'operazione importante come quella di Quagliarella, e le società di media bassa classifica come l'Atalanta, il Cagliari, la Sampdoria, la stessa Udinese hanno dei buoni attivi e quindi possono ragionare in termini più sereni sulle operazioni di mercato. Certo, non potranno permettersi di strappare Cristiano Ronaldo al Manchester o Messi a Barcellona, ma operazioni più attente possono fare. Comunque provare a rafforzare la squadra, che è poi quello che hanno la possibilità di farlo. Diamo una buona notizia. È l'obiettivo di ciascuna società quando una stagione finisce e se ne deve preparare un'altra. Un ultimo aspetto mi piacerebbe toccare con te. Non so se tutti sono al corrente, certo i più avveduti sì, i più informati sì, ma del perché poi ci siano così tante trattative e del perché il calciomercato duri ormai tutto l'anno e i giornali sportivi in particolare ne scrivano praticamente ininterrottamente per 365 giorni l'anno. Perché c'è un ritorno ben preciso, al di là di quello che possono avere i giocatori e le società, c'è un ritorno ben preciso per una categoria non più inedita, ma che un tempo non esisteva, che è quella dei procuratori. E se quindi parliamo di trasferimenti di queste 68 milioni Kakà o non so, 80 faccio per dire Ibrahimovic, c'è un signore che li amministra e che li gestisce, che di quella somma ricava, credo, una percentuale discreta. Una percentuale discreta, che vale, tant'è vero che molti campioni, a partire da Kakà, hanno preferito, e lo stesso Ronaldinho, tenere le cose in famiglia e nominare come padre, procuratore, fratelli, il padre, il fratello. Insomma, in fondo due conti se li sono fatti anche loro. Io direi che tutto risale, se vogliamo, alla sentenza Bosman, quella famosa decisione comunitaria che ha sostanzialmente liberalizzato i vincoli contrattuali dei calciatori. E se oggi si dice che i contratti non valgono più, che decidono i calciatori, che una squadra non può trattenere in fondo un campione contro la sua volontà, è anche frutto dei principi sanciti in quella decisione. Però io ritengo che vadano valutati con attenzione quei principi. Esistono anche dei contratti, esistono delle regole che chi sottoscrive i contratti deve rispettare, sia la società che il calciatore. E io ritengo che le società italiane in particolare ora debbano essere chiare su un punto, perché sostanzialmente hanno la possibilità di trattenere quei campioni, sia pure contro la loro volontà, hanno la possibilità di deferirli agli organi di giustizia sportiva, ma anche la possibilità di ottenere dei risarcimenti dei danni in sede civile, qualora le bizze di questi campioni, certo, superino certi limiti. E penso per esempio a un caso che mi riguarda da vicino, quello di Lavezzi a Napoli, per esempio, che è un classico, una classica situazione in cui ormai le squadre si ritrovano quando magari acquistano un giocatore sconosciuto, lo valorizzano e si ritrovano poi attorniati da questi procuratori, spesso poco preparati, che chiedono ad ogni piesso spinto aumenti di ingaggio. Quando ci sono dei contratti scritti, voglio dire, sarebbe illegittimo per esempio che un proprietario chiedesse a proprio locatario affittuario un aumento continuo del canone di locazione. Se c'è un contratto, questo contratto va rispettato. E in questo senso le tifoserie sono importanti, e ho assistito proprio in questi giorni, ascoltando un po' di radio private napoletane per questioni di nostalgia, a proprio un cambio di rotta. Domenica scorsa, nell'ultima partita, ho visto per esempio che i tifosi difendevano Lavezzi e volevano in qualche modo testimoniare il loro affetto al calciatore. Negli ultimi giorni però, visto che è scappato in Argentina, tra l'altro lasciando una lettera a Sky in maniera molto inusuale, mentre c'era un amichevole che la squadra doveva giocare, quindi venendo meno ai propri obblighi contrattuali, ho visto appunto la tifoseria in qualche modo sostenere la società, e le società come l'Inter, il Milan vanno sostenute, ma devono essere anche queste società essere chiare. L'Inter intende o no vendere Ibrahimovic, il Milan intende o no vendere Kakà. Facendo chiarezza si rafforzano anche nei confronti di questi procuratori. Vabbè, facciamo passare queste elezioni, che poi magari poi perlomeno in un caso qualcosa di più capiremo anche ufficialmente. Grazie a Marco Bellinazzo. Grazie a voi. Torniamo in onda con la sorpresa prevista, introdotta da questa introduzione in piena regola, perché è un'introduzione alla biografia di Carlo Ancelotti, scritta in collaborazione con Alessandro Alciato, e questa prefazione è firmata Paolo Maldini. Scrive Paolo Maldini: tra tutte le gestioni di spogliatoio che ho vissuto, la sua, e cioè quella di Ancelotti, è stata in assoluto la più serena. Si tiene dentro preoccupazioni e pressioni, così la squadra resta tranquilla e vince, e poi vince, e vince ancora. Anche se ogni tanto l'uomo più buono del mondo sbotta. L'ultima volta che è esploso per davvero è stata a Lugano, dopo un amichevole precampionato perso contro una squadra di Serie B svizzera. Sembrava pazzo, ce ne ha dette di tutti i colori, ci ha insultati come animali, cose pesantissime e irripetibili. Non si fermava più. E a me veniva da ridere, perché gli era partita la brocca, non l'avevo mai visto così. Era tutto rosso e vicino a lui c'era Adriano Gagliani con la cravatta gialla, insieme somigliavano all'arcobaleno. Dopo due giorni ci ha chiesto scusa, perché cattivo fino in fondo non lo sarà mai, è dolce dentro e il segreto delle nostre vittorie sta nella sua normalità. Ti riconosci in questo ritratto di Maldini, caro Carlo Ancelotti? Tanto buongiorno. Buongiorno. Sì, mi riconosco. Paolo mi conosce perfettamente. Sì, eh? Sì. Senti, senza violare troppe leggi sulla privacy, proviamo ad ambientare più o meno questa telefonata. Da che parte del mondo sei? Sono a Londra. Sei a Londra e quindi sei nella tua nuova dimensione, insomma. Sì, sono venuto a controllare, a vedere la situazione, a parlare con la mia nuova squadra. Non ci sono naturalmente i giocatori, perché sono tutti via o in vacanza o che è impegnato con le nazionali. Senti, quando comincerete? Cominceremo il 6 luglio. Il 6 luglio. E quindi hai una gran voglia di vacanza adesso, immagino. Sì, adesso è stata una stagione intensa, fortunatamente abbiamo raggiunto l'obiettivo minimo, adesso sì. Un po' di vacanza ci vuole. Sì, poi ti dirò anche da notizie di agenzie di stamattina come mai siete riusciti domenica a Firenze a raggiungere l'obiettivo minimo, ma andiamo per ordine. Io sto sfogliando questo libro bellissimo che tra l'altro mi risulta, Carlo, e questo mi risulta da Rizzoli che l'ha editato, già a fine settimana, quando usciranno il sabato e la domenica le classifiche di vendita, avrà scalato abbondantemente le classifiche e questo credo che ti farà piacere. Sì, sono contento. Ma dimmi perché soprattutto a Borgonovo. Ecco, bravo. Il motivo per cui ho scritto questo libro è solo ed esclusivamente per aiutarlo a trovare fondi perché possa migliorare la ricerca verso questa malattia che ancora per molti versi è poco conosciuta. Faccio un'altra piccola violazione alla privacy, ma spero mi perdonerai. Noi abbiamo un amico comune che è un grande e grosso produttore di vino in Franciacorta, che mi ha raccontato quanto segue. Dopo l'ultima eliminazione dalla Coppa, tu, allargando le braccia, visto che comunque aveva fatto tutto il possibile e non c'era stato nulla da fare, hai allargato le braccia e gli hai detto pazienza, però vorrà dire che avrò un po' più di tempo per andare a trovare Stefano. Sì. Sì, sì, questo è vero. Adesso ultimamente sono andato meno del dovuto perché sono stato un po' preso dagli impegni, però Stefano rimane sempre un amico carissimo, soprattutto ho conosciuto un altro aspetto di lui che è legato alla sua combattività. Quando era un giocatore non era la sua peculiarità, la combattività ritrovata cercando di superare questo suo momento difficile, lo stai gestendo molto bene. E devo dire che più che dare un aiuto a lui mi dà un aiuto a me stesso quando lo vado a trovare, perché ritrovo veramente un guerriero. Questo è molto bello, questo mi fa pensare che io personalmente avrei preferito che tu restassi in Italia, perché avresti avuto ancora anche più tempo di frequentare Stefano. Restare in Italia intendo a quella che anche da questo libro, ma non è una novità, risulta essere alla fine la squadra a cui tu sei rimasto più legato, Milan escluso. Tu scrivi a un certo punto: la Roma è così, un giorno la allenerò, sono in debito, mi ha fatto divertire da subito, fin da quando nel 79 Lidl, tornando da una vacanza a Salso Maggiore con la moglie, si fermò a Parma e mi ha portato via 1.200.000.000 eccetera. E poi ricordi il tuo arrivo a Roma, bellissimo, perché ti dicono, arrivo alla stazione Termini, mi dicono prendi il taxi, vai in via del Circo Massimo, raduna la squadra lì, mi raccomando un taxi giallo, uno di quelli con la scritta, non salire sulla macchina di un abusivo, se no paghi di più, arrivi, chiedi quanto costa, 10.000 lire, prendi il portafoglio, tiri fuori i soldi e a quel punto i tifosi che stanno circondando la sede, tu scrivi, vedendo che sto pagando si incazzano di brutto con quel povero tassista e cominciano a urlargli, a laziale, a zozzo, la trovo meravigliosa. È bellissima, perché poi veramente di quelle che ti divertono a leggerle, Carlo. E in questo devo dire che è stato molto bravo anche Alessandro Alciato, ho l'impressione. Alessandro Alciato è stato bravissimo, Io ho qualche perplessità, anche perché insomma sono tanti episodi ai quali sono molto legato e che ritengo molto personali, però il fatto che lui scrive molto bene, il fatto, insomma, lo scopo di questo libro mi ha spinto a proporlo, a pensarlo, soprattutto poi dopo lui l'ha messo su carta molto molto bene, devo dire. Sì, è entrato in sintonia con te e questo lo si capisce. Io ne sono anche abbastanza fiero, perché Alessandro Alciato è un biellese esattamente come me. E quindi questo... devo dire la verità, dal libro che tu hai scritto su Nereo Rocco, che mi è piaciuto tantissimo. Bene, sono contento. Questa non era combinata, vorrei che gli ascoltatori lo sapessero. E vorrei anche che sapessi che se c'era una, dal mio punto di vista di rocchiano di ferro, se c'era una persona degna di superare Rocco nella classifica di tutti i tempi al Milan, era proprio Carlo Ancelotti, e invece non è andata così. E tu ci avresti tenuto molto, sì, ma insomma credo che ho vissuto una bellissima avventura al Milan come l'ha vissuta Rocco, quindi poi credo che anche è finita bene, nel senso che siamo rimasti in ottimi rapporti, cosa che raramente succede nel mondo del calcio, e anche per questo insomma vivo la futura avventura con entusiasmo e ottimismo. Sarebbe dispiaciuto aver lasciato il Milan con dei rancori, invece così, o dei rimpianti, non ci sono stati, non ci sono, e e vivremo il futuro separati, diciamo così. Questo è molto bello da parte tua. Il dovere di cronaca a questo punto, e poi la smetto subito, però mi impone di leggerti una breve agenzia di stamattina, che è stata una lunga visita dell'ex presidente del Milan in vari studi televisivi, e di questa frase: finalmente domenica a Firenze abbiamo giocato con la formazione che io avrei voluto vedere tutto l'anno, e per pura combinazione si è vinto e ci si è qualificati in Champions. No, beh, ma di chi è questa dichiarazione? Dell'ex presidente del Milan, di Silvio Berlusconi, stamattina. No, vabbè, qualche discussione col presidente l'abbiamo avuta, ma insomma rimane grande affetto e grande stima. Tu hai deciso di andartene da grande signore e non hai nessuna intenzione di deflettere da questa linea. Esatto. Questo ormai l'abbiamo messo a fuoco sin da domenica e mi pare che sia giustamente e sacrosantamente confermato. Senti, dicevamo di Roma e di questa tua, del fatto che Lidl Messacchi tu li hai individuati come i tuoi due maestri. Io mi ero fatto l'idea, sbagliando, che alla fine tu avresti anche un po' percorso la carriera di Lidl, no? Con questi, magari con più di un andirivieni tra Milan e Roma, e invece mi sono sbagliato. Ma credo che sono molto legato a Roma, soprattutto per quello che è stato il passato, è stato bellissimo. Abbiamo vinto il campionato dopo 40 anni, quindi figurarsi, ancora oggi quando vado a Roma sono trattato da re. E credo che nel futuro, anche perché non è che sono rimaste più tante squadre che posso allenare, nel futuro Roma rappresenta sicuramente un obiettivo per me. E come ho iniziato da calciatore, magari il pensiero di poter chiudere come allenatore alla Roma non mi dispiacerebbe. Tra le cose che mi sono piaciute in maniera particolare di questo libro c'è che poi quando è ora le cose non si mandano a dire, sia pure con molto garbo, e cioè a un certo punto tu scrivi: nella vita non ci possono piacere tutte le persone che incontriamo, io e Fabio, cioè Capello, avevamo e abbiamo caratteri diversi. Il problema, lo avverto anche adesso che sono dall'altra parte, è che scindere il rapporto professionale da quello umano è difficilissimo. E poi vai avanti e continui dicendo: leggeva benissimo le partite, da questo punto di vista giù il cappello, umanamente il discorso cambiava, era burbero, non dialogava, non amava discutere con noi. E poi racconti anche di una volta che Gullit l'ha appeso in spogliatoio, esattamente come avevi visto fare soltanto a Roma da Lidl, che appese in un colpo solo Turone e Pruzzo. In fondo è logico che sia così, non è che nella vita si deve proprio andare d'accordo con tutti, no? No, certamente no, ma poi devo dire che quando poi passi dall'altra sponda capisci quanto siano magari difficili e complicati i rapporti con alcuni giocatori. Insomma, quindi Cappello sicuramente l'ho rivalutato molto nel momento in cui sono passato all'altra parte, e anch'io come lui ho avuto problemi nella gestione di alcuni giocatori. Sì. Questo me lo immagino. Senti un po', un passo autocritico. Io stavo antipatico ai vecchi dirigenti del Parma, scrivi, soprattutto per aver rinunciato a Roberto Baggio. Non mi andava di cambiare il mio sistema di gioco. Avevo appena conosciuto la Serie A, gli ho telefonato e gli ho detto: ti prendo volentieri una caduta la linea, però bisogna che riprendiamo un attimo. Ripristinato il collegamento con Carlo Ancelotti. Ma non starei mica guidando tu, Carletto, no? No, sarai mica matto. Il Chelsea si può ancora permettere l'autista, no? Al momento. Sì. Per il momento. Vabbè, senti, avevo ancora due o tre capitoli scritti da te, dal chat, che mi piaceva riprendere. Sarebbero tanti, ma insomma è giusto per dare un'idea agli ascoltatori di quello che troveranno in questo libro, di gustoso. Tu dici: a Parma sono stato criticato molto, specialmente nel mio secondo e ultimo anno, erano tutti pronti a dirla loro un po' troppo snob. E stavo antipatico io ai vecchi dirigenti del Parma, soprattutto per aver rinunciato a Roberto Baggio. Ma io allora, tu spieghi, ero un po' poco dutti. No, non volevo stravolgere il mio 4-4-2. Gli telefonai: ti prendo volentieri a Baggio, ma sappi che ho intenzione di farti giocare da attaccante e sei in concorrenza con Crespo e con Chiesa. A distanza di anni, scrivi, mi sono pentito, ho sbagliato a essere così intransigente. Sì, è vero, perché poi naturalmente poi con l'esperienza dopo capisci che è importante avere i giocatori, e poi dopo in base ai giocatori che hai adattare il sistema di gioco. Non avevo molta esperienza, non avevo molte conoscenze, avevo paura ad avventurarmi in un sentiero che facevo poco, e quindi ho detto a Baggio proprio questo, a distanza di tempo. Poi mi sono accorto che i giocatori è meglio che li hai, poi dopo in qualche maniera poi dopo li gestisci. Lì che anno era? Era il 2002? No. No, era il 98 addirittura. Se t'avessero detto che da lì a 10 anni dopo tu avresti dovuto, per comportarti bene fino in fondo col giuoco, avresti dovuto far convivere non Baggio, Chiesa e l'altro, ma avresti dovuto far convivere Kakà, Pato, Ronaldinho, Shevchenko, dimmene un altro. Seedorf e Beckham, no? Beckham ma nel Milan, non nel Circo Medrano, però No, ma Beckham parte da un ragazzo straordinario, un grandissimo professionista. Certo. Ma devo dire che non ho mai avuto difficoltà a gestire i giocatori, mi sono sempre trovato molto bene. Questo lo ha testimoniato Maldini in questa introduzione che ho letto prima, sì. Perché Paolo mi pare che, e lo ha dimostrato anche nell'ultima sua vicenda bellissima, ma con quella punticina sgradevole, Paolo non è uno che le manda a dire, ho l'impressione. No, assolutamente no. Ecco. È stato un grande aiuto, un grande supporto, oltre che un grande campione, perché Paolo veramente identifica il vero ruolo del capitano. Certo. Quindi grande serietà, grande professionalità, disciplina, e quindi l'aiuto che mi ha dato è stato importantissimo. Poi la prima volta che ci vedremo ti consegnerò di persona tutti i messaggi che sono arrivati in questo frattempo da tutte le parti d'Italia, da Padova, da Alba, da Milano, da Firenze. Ne sto leggendo di ogni sorta, diciamo che c'è un 80-90% buono di gradimento. Io ho ancora due passaggi che vorrei leggere del tuo libro. Uno è Kakà, scrivi: è sbarcato all'aeroporto di Malpensa e mi sono messo le mani nei capelli, occhialini, pettinatissimi, faccia da bravo ragazzo, non vedevo solo la cartella con i libri alla merendina. Oddio, abbiamo preso uno studente universitario, benvenuto al progetto Erasmus, non sarebbe male se sapesse anche giocare a pallone. Kakà non aveva niente del brasiliano, mi ricordava un testimone di Geova a Cologno Bonzese. Beh, l'hai cambiata idea poi, No, dopo l'ho cambiata, sì, perché io Kakà non lo conoscevo assolutamente. È bastato il primo giorno d'allenamento per capire che era sbarcato un fenomeno grande, che poi dopo ha dimostrato tutto il suo valore negli anni a venire. Peccato che ora debba fare a meno di Kakà, perché è stato un grande campione. Si saprà solo lunedì ufficialmente, Carletto. Stato via qualche ora, non anticipare i tempi. Prima di lunedì non si saprà nulla di definitivo. Sai perché mi ha molto divertito il racconto di Kakà alla Malpensa? Perché mi ha ricordato quello proprio di Paron Rocco alla Malpensa, che era andato a ricevere Dino Sani e quando vide sbarcare Dino Sani tutto calvo e leggermente ingobbito in avanti con un impermeabile troppo grosso, disse: ciò, gavemo comprare un impiegato del catasto, no? E quindi più o meno è un altro genere, ma un po' tuo testimone di Geova. Raccontiamo la finale di Atene attraverso questo episodio bellissimo, che è assolutamente inedito, perché il bello di questo libro è anche, per l'appunto, che c'è molto di inedito. Allora, dopo che voi, cioè tu racconti il 3-0 di semifinale, capolavoro contro il Manchester United a San Siro, e poi scrivi: 24 ore prima di noi il Liverpool aveva giocato contro il Chelsea la sua semifinale, il nostro centro sportivo in pratica non esisteva più, sostituito dalla curva di uno stadio, la mitica Cop di Anfield in trasferta a Milanello, e qui la festa nella sala riunioni con 30 satanati davanti al televisore che urlavano: you'll never walk alone Liverpool, non camminerai mai solo. Eravamo noi milanisti con la scialpa rossa, facevamo un tifo infernale contro il Chelsea, che non ti senta Abramovic, erano spuntati cappellini e trombette. Perché? Perché volevate ad ogni costo il Liverpool 2 anni dopo Istanbul. Sì, lo consideravamo il destino, il fatto di poter rifare una finale dopo 2 anni con la stessa squadra, dopo la delusione di Istanbul, lo consideravamo proprio un segno del destino positivo. Quindi quando il Liverpool vinse contro il Chelsea quella partita, eravamo molto contenti, ma anche sicuri che avremmo vinto la Coppa dei Campioni. Così mi pare che sia andata. La prossima te la giocherai, mi pare di capire, da qualche altra parte. Carlo, io non ti ringrazio davvero molto per questa straordinaria partecipazione. Ne approfitto per ricordare che Carlo Ancelotti con Alessandro Alciato ha scritto Preferisco la Coppa, vita, partita e miracoli di un normale fuoriclasse, con prefazione di Paolo Maldini, edito da Rizzoli. Presto lo troverete, se non in testa alla classifica quasi. Mi dicevano da Rizzoli, poi ti lascio davvero, che negli ultimi tempi sono usciti 4 libri su Mourinho, ma questi 4 libri messi insieme al momento non hanno venduto quanto ha già venduto il tuo libro in pochi giorni, quindi potremmo dire 0 copie magari. Zero copie non è male, potremmo metterla così. Dai, te la regalo la prossima volta che mettiamola così, dai. Mettila che la prossima volta che hai da fare 2 parole con lo Special One, magari gliela molli, insomma. Sì, gliela tiro, va bene. Un abbraccio, Carletto. Grazie, di vederci a tutti. A presto. Beh, adesso sinceramente non so come andare avanti, perché quando parli con un personaggio di questo genere e di argomenti di questo genere, e ce ne sarebbero tantissimi altri, forse potrei, anche in assenza di Carlo, potrei provare a leggere qualcos'altro, di, non so, Maifredi per esempio. Perché? Perché scrive Ancelotti a un certo punto che Sacchi facesse vedere a Baresi le videocassette di Signorini per copiarne i movimenti è un falso storico, nel senso che non è mai stata vera questa cosa, è sempre stata una leggenda metropolitana. Che ci parlasse invece Sacchi sempre e comunque del Bologna di Maifredi era una triste e sacrosanta verità. Ci stuzzicava con questo modello calcistico finché un giorno giustizia è stata fatta. Sacchi il 26 dicembre 87 organizzò un amichevole proprio col Bologna in trasferta, racconta Ancelotti. Siamo scesi in campo col sangue agli occhi, io in particolare, perché mi aveva fatto saltare il pranzo di Santo Stefano. Caro Bologna di Maifredi, te ne do io le lenticchie e il bollito. Prima di uscire dagli spogliatoi siamo stati molto chiari con Sacchi, ora ti facciamo vedere noi chi sa giocare a calcio e chi no. Morale, li abbiamo fatti neri 5-0 per noi, con Van Basten che era infortunato ma che era follemente contento. Abbiamo anche la rubrica di Sembra Ieri da ascoltare oggi e non vorrei proprio perdermela. Sentirei prima Massimo, che è già collegato da Milano. Buongiorno. Buongiorno a tutti quanti. Dica Massimo. Intanto un caro saluto a mister Ancelotti da tifoso milanista, un saluto alla sua personalità, al suo stile, alla sua educazione e ai tanti trofei che ci ha fatto vincere. E una piccola considerazione sulla posizione di Teo Teocoli, che probabilmente è anche quella di molti altri tifosi milanisti. Io credo che sia oggettivamente sconfortante nel 2009 ancora sentire posizioni di tifosi di questo tipo. Noi dovremmo ringraziare il presidente Berlusconi per i 20 anni di campionati e di milioni di euro che ha messo in questa squadra. D'altronde in Italia ci sono solo 2 magnati che hanno squadre di calcio. Uno è Berlusconi e l'altro è la famiglia Moratti, se vogliamo aggiungere anche la famiglia Agnelli e anche la Juve. Tutto il resto sono imprenditori che cercano di far quadrare i bilanci. C'è chi ci riesce, c'è chi non ci riesce. Trovo francamente sconfortante sapere che se lunedì Kakà non sarà più al Milan, noi non saremo più tifosi milanisti. Sembra di vivere un calcio di 40 anni fa che non esiste più. C'è un mercato. Penso di credere che non sia solo la società che voglia vendere Kakà una buona offerta del Real Madrid, ma anche Kakà che possa guadagnare qualche milione di euro in più. Non credo che il papà di Kakà possa dispiacere, quindi credo che con un minimo di disincanto dovremmo prendere atto che si deve ringraziare i presidenti Moratti, la famiglia Agnelli, Berlusconi, per quelli che sono i tifosi che hanno queste squadre, certo. E tutti i presidenti che mettono i soldi nelle squadre. Sì, Massimo, su questo siamo d'accordo. Poi c'è questo tono da mettersi a 90 gradi che non è il massimo della vita, perlomeno dal mio punto di vista, secondo, così a grandi linee, davanti a questi personaggi. Però è certo, l'ho detto prima, no? Che se c'è, credo che l'ingratitudine in questi casi risulti più palese che in altri. Lo sapevo io che era meglio comunque ripassare la storia. Sembra ieri. Sembra ieri. 4 giugno 1992. L'Italia, che ha fallito la qualificazione agli europei svedesi, partecipa a un torneo negli Stati Uniti, battendo a Boston l'Irlanda per 2-0, con reti di Signori e Costa Curt. Contro l'Irlanda, Walter Zenga colleziona la 58esima e ultima presenza in azzurro. In seguito, il CT Sacchi gli preferirà Pagliuca e Marcheggiani. Zenga aveva esordito tra i pali della nazionale maggiore all'inizio della gestione Vicini, l'8 ottobre del 1986, in un amichevole vinta 2-0 contro la Grecia. Solo 2 portieri vantano più presenze di lui, Dino Zoff e Gigi Buffon. Però, Fausto in linea da Modena e poi chiudiamo anche l'appuntamento di oggi. Pronto? Dica Fausto. Mi sente? No, io volevo parlare di Kakà. Io le ultime partite, essendo un milanista, andando Kakà, dico sì, sicuramente sarà una grossa perdita, però sono convinto che lascerà spazio a Pato, sperando che resti, e forse a qualcun altro, perché veramente nelle ultime partite è stato, non dico penoso, avendo giocato calcio mi sembra veramente un, mi è stato ultimamente, cioè proprio poco reattivo, poco combattivo, cioè non lo so, può darsi che fosse già, diciamo, con la testa a Madrid, però non può un giocatore della sua, delle sue qualità, della sua fama, comportarsi così, diciamo, come magari, non so, il primo non tempo. Non è stata la migliore stagione di Kakà questa, indubbiamente, in un primo periodo per ragioni anche tattiche, poi ha avuto qualche problema di infortuni, poi indubbiamente dalla vicenda del Manchester City in avanti qualche turbativa ambientale c'era e come si è visto era rimasta nell'aria, e questo può aver condizionato. Amen. È morto un papa, se ne fa un altro, quindi a maggior ragione si farà un'altra mezzala o un altro rifinitore o un altro grande giocatore. Grazie a Filippo Auregi in regia, grazie a Flavio Suardi in redazione, grazie a Carlo Ancelotti per la sua partecipazione, grazie a voi per il fatto che per i prossimi 8-10 giorni mi lascerete andare a fare una settimana di vacanza e vi farete far compagnia da Carlo Genta. Per quel che mi riguarda ci si ritrova verso metà giugno con l'appuntamento con la Confederation Cup, ma con tutti gli sviluppi di quello che sta accadendo in queste ore e in questi e nei prossimi giorni. Buon pomeriggio.